Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo spiegato spesso come per produrre calore sia preferibile utilizzare dei combustibili e non l'energia elettrica, che è assai più preziosa. Ma a questa che è una buona regola generale non mancano come sempre alcune eccezioni. È il caso di certi utilizzi degli infrarossi e delle microonde, entrambi prodotti tramite energia elettrica, e si tratta, come sapete, di onde elettromagnetiche imparentate con la luce ma caratterizzate da lunghezze d'onda più elevate. Insomma, così come la luce rossa ha una lunghezza d'onda maggiore di quella blu, così l'infrarosso ha una lunghezza d'onda maggiore del rosso e le microonde una lunghezza d'onda ancora maggiore. Come vedremo, si tratta in entrambi i casi di radiazioni utili a riscaldare. Vediamo quando è interessante ricorrere a queste forme di radiazione per ridurre i consumi energetici. Ne parliamo con Daniele Forni, responsabile tecnico di FIRE, ovvero la Federazione Italiana per il Risparmio Energetico. Buonasera Forni. Buonasera. Allora, da cosa vuole cominciare? Ma dalle microonde. Parliamo di microonde allora. Beh, gli ascoltatori le conoscono perché insomma tutti o quasi abbiamo un forno a microonde in casa. Quando le microonde quindi sono utili a risparmiare energia? Beh, il vantaggio delle microonde è che permettono di scaldare corpi che non sono buoni conduttori di calore. Quindi questo è uno dei concetti base da cui iniziare. L'altra questione è cosa riescono davvero a scaldare le microonde, tipicamente corpi che contengono acqua o molecole polari, perché le microonde mettono in agitazione queste molecole polari, queste come l'ago di una bussola iniziano a, diciamo, muoversi, ruotare impazzite, a ruotare, e a quel punto questa energia viene dissipata in calore. Normalmente noi siamo abituati in cucina, quando mettiamo qualcosa a scaldare o a cuocere sui fuochi, ad avere il calore che arriva da sotto e piano piano si diffonde. Con le microonde invece il calore viene, tra virgolette, teletrasportato all'interno, creato all'interno del corpo, e quindi non ho da fare tutto il passaggio o delle distribuzioni di calore che possono essere molto più uniformi. Anche lo stesso discorso vale per il forno: l'aria calda pian piano deve, come dire, trasmettere il calore lentamente fino all'interno. Quindi il motivo per cui ci si guadagna è che ci si mette meno tempo, fondamentalmente. Non è che sia di per sé risparmioso usare le microonde, ma accelerano talmente tanto i tempi, per esempio di cottura, che il risparmio viene fuori da lì. Un risparmio di tempo è una delle cose, delle caratteristiche fondamentali che possono portare alla scelta di questo sistema. Se poi pensiamo alla cottura, comunque io evito di dover scaldare tutto il resto, perché di solito se metto la teglia in forno devo comunque scaldare nel forno tutta l'aria, la teglia stessa, quindi devo scaldare molto più materiale intorno al cibo che io in realtà voglio cuocere. Bene, qualche altro esempio? Ma direi che gli esempi tipici sono molto nel campo dell'alimentare, quindi cuocere, scongelare, disidratare, pastorizzare. E poi possono esserci anche altre applicazioni di tipo industriale, ce n'è tipicamente nelle vernici, in cui riuscendo ad andare ad applicare sia un metodo di essiccazione di tipo tradizionale per riscaldamento, quindi aria calda, certo, aria calda abbinato a un sistema a microonde, si riescono a ridurre tantissimo i tempi di un ordine di grandezza, quindi passando, diciamo, dalle ore ai minuti, e quindi si ottiene un grandissimo beneficio, perché ovviamente anche se aumenta un pochino il consumo, perché l'emettitore ha un suo consumo maggiore di quello, certo, tradizionale, però si riduce talmente tanto il tempo di trattamento che complessivamente il consumo diventa molto più basso. D'accordo, addirittura mi pare che se ne faccia uso come antiparassitario. Ah, questo è sì, una mi è capitato di rivedere nel mio comune qualche settimana fa, che volevano fare il trattamento per le palme contro il punteruolo rosso, che è un parassita. Sembra che uno dei pochissimi trattamenti che funziona è proprio con il microonde: si mette un emettitore toroidale, quindi una fascia, un bobinone intorno alla palma, e piano piano la si tratta, e sembra che tutto sommato si riesca a cuocere più selettivamente questo il parassita cuoce più della pianta, esatto, e quindi la pianta sopravvive, il parassita no, e sembra questo non è un esempio di risparmio energetico, però è un esempio abbiamo di risparmio risparmiato di una palma, ecco, quindi infatti comunque. Senta, proviamo a dire qualcosa velocemente sugli infrarossi. Qui mi pare che l'aspetto più importante è la direzionalità, invece. L'infrarosso è un'onda meno penetrante del microonde e quindi si ferma praticamente sulla superficie che, diciamo, illumina. Quindi scalda la superficie sulla quale incide direttamente, come la luce illumina le superfici sulle quali incide, questa invece le scalda. E in questo caso si riesce a scaldare solo la superficie per irraggiamento senza dover scaldare l'aria che c'è intorno, quindi può andare molto molto bene laddove ho magari dei trattamenti discontinui e quindi evito di dover scaldare tutto quello che c'è intorno, ma vado a scaldare selettivamente solo la parte, ripeto, illuminata, per dare l'idea, ecco, irraggiata. Ricordiamo un consiglio che abbiamo dato a Natale, che esistono per esempio delle lampade, sono delle lampade insomma infrarossi, appunto, se ne vedono molte in Nord Europa all'aperto, e uno la mattina, se entra nel bagno, tiene un calore istantaneo non appena accende la stufetta a infrarossi, e quando la spegne e finisce di utilizzarla il bagno rimane freddo, ma mentre si è sotto questa pioggia di infrarossi si percepisce un calore piuttosto benefico. Va bene, grazie Forni. Grazie a voi. Anche per oggi è tutto, Mr. Kilowatt torna domani, parleremo di teleriscaldamento. Buona serata.